Stati Uniti, Trump in Arizona a muso duro, anzi a muro duro. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. And once again tonight we are following breaking news out of Lafayette Park near the White House tonight. Full estimated attendance at 6,200. The arena holds 19,000. You are warriors. Thank you. We had some very bad people outside. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, una nuova puntata di Nessun Luogo Lontano. Con me ci sono sempre Antonio Tali, Ilaria Sesana, Valentina Ternullo e Andrea Macchioni. Oggi in assistenza Claudia Schiattone e in regia Roberta Frisani. 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti, anche critiche, anche feroci per carità, ma sempre sostanziate da validi argomenti, di questo naturalmente vi prego. Vi dico anche che siamo sui social, la pagina Facebook è Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, siamo su Twitter, seguiteci Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Oggi torniamo a parlare della situazione politica statunitense. Perché? Perché Donald Trump in queste ore, anzi tra pochissimo, volerà in Arizona per celebrare quella che è una delle sue vittorie, un grande cavallo di battaglia, la costruzione del muro, un lunghissimo muro, e in Arizona in particolare andrà a mettere l'ultima pietra, come si dice in questi casi, su oltre 200 miglia, quindi 322 chilometri di nuovo muro destinato a fronteggiare e contrastare l'immigrazione illegale che arriva dal Messico. Ma le ultime ore di Donald Trump ci hanno consegnato anche il divieto di rilascio di visti lavorativi per tutta una serie di categorie lavorative, fra cui anche lavoratori altamente professionalizzati e qualificati, la qualcosa ha fatto indispettire un po' di aziende dell'high-tech. Poi torneremo naturalmente sul libro di John Bolton, perché dalla mezzanotte di quest'oggi si può acquistare, e vi anticipo che sentirete tra gli altri l'autorevolissima voce di Charles Kupchan, che è uno dei più grandi politologi statunitensi. 349-238-6666 e noi intanto sfogliamo i nostri dossier. Il primo ci porta in Libia, perché è proprio di ieri sera la notizia che il principale organo per i diritti delle Nazioni Unite ha istituito una missione istruttoria in Libia dopo che i pubblici ministeri della Corte Penale Internazionale hanno dichiarato che le fosse comuni recentemente scoperte a Tarhuna potrebbero costituire dei crimini di guerra. La risoluzione delle Nazioni Unite ha anche espresso preoccupazione per notizie che sono arrivate di tortura, violenze sessuali, di genere e per le difficili condizioni nelle carceri e nei centri di detenzione. Non è l'unica notizia che arriva dalla Libia. Vi abbiamo dato conto nelle scorse puntate di Nessun Luogo Lontano come i metodi utilizzati da Haftar fossero nel mirino non soltanto della comunità internazionale ma anche degli organi giudiziari sovranazionali, e vedremo se vi sarà anche un'accelerazione da parte della Corte Penale Internazionale e da parte dell'ONU. Questo potrebbe portare a una accelerazione nella caduta della carriera politico-militare di Haftar, questo almeno è quello che sostengono alcuni analisti. Sapete che anche recentemente il generale al-Sisi, egiziano, ha in qualche modo costretto il suo collega Haftar a una sorta di tregua, e in buona sostanza è come se il sostegno dei vari attori più o meno presenti visibilmente in Libia stessero un po' mollando Haftar. Questa inchiesta delle Nazioni Unite potrebbe corroborare ancora di più l'avanzata delle truppe di Tripoli, di al-Sarraj, verso Sirte, che rimane una città chiave da andare a conquistare. E sempre ieri sera, indovinate chi è atterrato a Zuara? Richard Norland, ambasciatore statunitense in Libia, per incontrare chi? Proprio Sarraj. Era accompagnato l'ambasciatore statunitense in Libia dal comandante di AFRICOM, Stephen Townsend, è il comandante di tutte le operazioni militari statunitensi proprio in territorio africano. Di che cosa hanno parlato? Beh, della Wagner, naturalmente, la presenza di mercenari russi, schieramento Haftar in territorio libico, e del rischio di escalation che secondo Townsend potrebbe portare a un ritorno dello Stato Islamico in Libia. Al di là di questa dichiarazione e di questa lettura, che assolutamente potrebbe essere corretta, è evidente che gli Stati Uniti stanno tentando una sorta di ripensamento sul quadrante libico, e probabilmente l'appoggio a Sarraj potrebbe portare a una risoluzione del conflitto in tempi non biblici, e questo naturalmente per tanti civili libici sarà una benedizione. E poi in Turchia, perché nella tarda serata di ieri è arrivata la notizia che la NATO ha aperto un'inchiesta sul paese dopo le accuse di opposizione ai controlli da parte di navi dell'Alleanza Atlantica ai natanti provenienti appunto dalla Turchia, quei natanti di cui vi abbiamo raccontato nelle scorse puntate, sospettati di violare proprio l'embargo imposto dalle Nazioni Unite in territorio libico. L'incidente più grave si è verificato con una nave francese, era il 10 giugno. Secondo Parigi, i turchi avevano minacciato addirittura di aprire il fuoco. Ankara ha risposto che sono accuse assolutamente ingiustificate. Però si è fatto sentire Macron, vi ricordate quel Macron che diceva che la NATO soffre di morte cerebrale? Ebbene ha detto: finché noi, membri della NATO, europei, saremo deboli nelle nostre parole o mancheremo di chiarezza, lasceremo giocare i poteri non cooperativi. Non voglio, ha aggiunto, tra sei mesi, un anno, due anni, vedere la Libia nella situazione della Siria. È evidente peraltro che al di là dell'utilizzo dell'appartenenza alla NATO da parte della Francia c'è un bel braccio di ferro in questo momento in atto tra Parigi e Ankara. Perché? Perché Ankara sostiene Sarraj, Tripoli, e mentre Parigi in maniera molto sotterranea si era schierata da tempo col generale Haftar. Poi in penisola arabica, perché è di poche ore fa la notizia che la coalizione militare a guida saudita ha intercettato e distrutto 8 droni e diversi missili lanciati dai ribelli Houthi, incluso uno indirizzato contro la capitale Riyadh. L'attacco è avvenuto dopo che l'Arabia Saudita ha annunciato lunedì che i separatisti meridionali dello Yemen, sostenuti dai Emirati Arabi Uniti e il governo riconosciuto dalla comunità internazionale, in primis da Riyadh, hanno accettato un cessate il fuoco dopo mesi di combattimento. Non è la prima volta che ribelli sostenuti anche dall'Iran prendono di mira l'Arabia Saudita. Certo è eclatante che un missile fosse diretto verso la capitale Riyadh. Qualche mese fa le sedi della compagnia petrolifera Aramco erano state bersagliate da non meglio precisate milizie, ma era evidente che vi fosse dietro l'Iran. È in gioco una partita molto molto importante e i sauditi cercano come possono di mantenere quel grado di egemonia sulla regione che negli ultimi anni è stato fortemente intaccato dall'Iran. E infine l'ultimo dossier che vi propongo: i nostri dossier internazionali sono quei fascicoli, quei fatti, quelle notizie che campeggiano qui sui tavoli della redazione di Nessun Luogo Lontano, ci lavoriamo magari da giorni, a volte sono state puntate di Nessun Luogo Lontano per cui teniamo il tema caldo, altre volte diventeranno approfondimenti in questo programma. Dicevo, unico dossier africano presente quest'oggi sulle nostre scrivanie riguarda il Malawi. Ai più forse non dirà tantissimo questo stato africano. In buona sostanza oggi si torna a votare per le presidenziali dopo che l'anno scorso era stato annullato il voto che aveva portato alla rielezione di Peter Mutharika. Il Malawi è il secondo paese del continente dopo il Kenya nel 2017, dove la Corte Costituzionale, pensate, ha abrogato uno scrutinio elettorale per diffuse irregolarità. Negli ultimi mesi la campagna elettorale in Malawi è stata piuttosto concitata e turbata da soprattutto manifestazioni da parte dell'opposizione che spesso sono sfociate in violenza. I due si sfideranno nuovamente in questa tornata elettorale, sono Peter Mutharika, 80enne, professore di diritto, e che governa il paese dal 2014, e Lazarus Chakwera, che è un 65enne, pastore, professore di teologia, che guida proprio l'opposizione. Arrivano già i primi messaggi al 349-238-6666, segno che ancora una volta è tuttora a parlare di politica statunitense e soprattutto del suo divisivo presidente Donald Trump. Fa scattare, come dire, i polpastrelli agli ascoltatori, ne sono lieto. Ricordo solo le semplicissime regole per partecipare al dibattito: qui a Nessun Luogo Lontano non ammetto commenti razzisti, sessisti, omofobi e nemmeno naturalmente volgarità. Per il resto sono qua pronto a leggerli, non prima di essere andati, come lui, come Donald Trump, a muso duro in Arizona. Da molti anni si voleva un muro e ora ne abbiamo uno che credo non abbia eguali nel mondo. Adesso abbiamo un sistema di sicurezza al confine che impiega la migliore tecnologia. Non ci sono strutture simili nel mondo. You take a mortal man and put him in control. Questa era la dichiarazione di Donald Trump qualche tempo fa, lo sapete, è stato un suo grande cavallo di battaglia elettorale. Il costo preventivato da Donald Trump per questo muro era di 10 miliardi di dollari. Ricorderete anche la diatriba, anche fortemente accesa, che aveva ingaggiato con il governo messicano, perché voleva attribuire sostanzialmente a Città del Messico tutti i costi di questo muro. Naturalmente è molto difficile quantificare il costo stesso, però secondo alcune stime, in particolare un rapporto stilato dalla Bernstein Research, tenendo conto anche di tutti i materiali necessari alla costruzione, della manutenzione che è piuttosto costosa, il costo del muro potrebbe spingersi oltre i 10 miliardi e arrivare a quota 25 miliardi. New America Foundation parla di 40 miliardi, altri analisti fanno oscillare la cifra tra i 36,6 milioni ai 59,8 miliardi totali, mentre la senatrice democratica Claire McCaskill parla di 65 miliardi, a cui vanno aggiunti, vi dicevo, i costi di manutenzione, le cui stime si girano tra i 150 e i 750 milioni all'anno. Non c'è dubbio che alcuni hanno fatto un plauso a quella che è l'efficacia di questa barriera. Per esempio, la US Custom Border Protection l'anno scorso ha fatto domanda per barriere più invasive, sostenendone appunto l'efficacia, loro che sono in prima linea non soltanto nel traffico di migranti ma anche nel traffico di droga. E, è interessante la dichiarazione che ha reso la stampa un capo pattuglia, si chiama Rodney Scott, che ha detto: ho iniziato nel settore di San Diego nel 92, non importava quanti agenti schierassimo, non riuscivamo mai ad avere un impatto misurabile sul flusso di migranti privi di documenti attraverso il confine. Solo quando abbiamo installato le barriere lungo il confine abbiamo iniziato ad avere sotto controllo la situazione. Poi però in questa, lo dicevo, tra pochissime ore Donald Trump sarà in Arizona ed è importante, al di là della celebrazione di questi 322 chilometri di muro realizzati, dicevo è importante perché arriva dal flop totale di Tulsa, in cui doveva essere accolto da una folla festante ma c'erano poche migliaia di persone. Dicevo, in questi anni sono accadute anche degli scivoloni durante la costruzione del muro, ad esempio qualche mese fa in California ne è crollato addirittura una parte. Ieri una grande porzione del muro del presidente Trump al confine con il Messico è crollata. Sono tanti però i temi sul tappeto e tra pochissimo vengo ai vostri messaggi, ascoltatrici e ascoltatori, perché ce ne sono tanti, al 349-238-6666. Dicevo, oltre al fatto che Donald Trump adesso vuole mettere la quarta, la quinta per togliersi di dosso quella polvere che arrivava dalla disfatta di Tulsa, Oklahoma, che vi abbiamo raccontato ieri, quindi in Arizona, spera evidentemente in un contesto più favorevole. Nel frattempo viene dato un bruschissimo giro di vite non soltanto all'immigrazione irregolare col muro, appunto, ma anche quella regolare, in particolare lavorativa, ma anche dal punto di vista professionale particolarmente qualificata. Come scriveva Marco Valsania proprio sul Sole 24 Ore poche ore fa, questo ordine esecutivo sostanzialmente dal 24 giugno fino a fine anno va a bloccare una serie di visti lavorativi che riguardano il personale high-tech, e questo ha creato una levata di scudi da parte di alcune di quelle aziende che sostengono che la capacità lavoro, la forza lavoro statunitense non è sufficiente per colmare quei buchi, quelle lacune. L'idea, la ratio che ha governato questo decreto del presidente è: cerchiamo di tutelare i cittadini e i lavoratori statunitensi e quindi cerchiamo di dar loro più opportunità di lavoro. Prima di andare ai vostri messaggi però vi faccio sentire la voce di Charles Kupchan, che è uno dei più grandi politologi americani, docente, accademico, lo potete leggere sui più prestigiosi giornali statunitensi e non solo. Innanzitutto un primo commento su quello che è accaduto ieri a Tulsa, Oklahoma. Sentite Kupchan. We don't have a great deal of insight into why the numbers. Non abbiamo abbastanza elementi di valutazione per capire perché i numeri del raduno di Tulsa si siano rivelati ben al di sotto delle aspettative. sembra che ci sia stata una combinazione di vari fattori. C'è stata la paura del contagio, perché sappiamo che il virus si sta diffondendo e i contagi sono in salita, quindi è probabile che un po' di gente si sia detta: non intendo prendermi il rischio di un assembramento, che si tratti di un auditorium al chiuso o di un incontro all'aperto, e che quindi queste persone abbiano deciso di rinunciare. L'altro elemento potrebbe essere che la spinta di cui Trump ha goduto si stia esaurendo. Molti sondaggi suggeriscono che Biden stia allargando il vantaggio che aveva già, e mi pare che ci siano pochi dubbi sul fatto che Trump sia inciampato diverse volte negli ultimi mesi, su tre questioni in particolare. One, everybody has been able to see that he responded slowly and incompetently. La prima è che ha risposto lentamente e con scarsa competenza all'epidemia di Covid-19. La seconda è che, invece di cercare di dare una risposta alle proteste successive all'omicidio di George Floyd, le ha in qualche modo esacerbate. Sembra quasi che sia interessato a usare la questione razziale per dividere il paese invece che per unirlo. E anche tra le fila dei repubblicani questo comportamento ha provocato reazioni negative. Terzo, nel bel mezzo delle proteste, Donald Trump ha autorizzato l'impiego dell'esercito anche contro manifestanti pacifici. E penso che per molte persone questo rappresenti un passo troppo in là. Si suppone che l'esercito degli Stati Uniti debba rappresentare una forza apolitica e non legata ad alcun partito. Ma le ultime azioni hanno fatto temere a molte persone che Trump si stia abbandonando a pratiche illiberali che minacciano l'idea di quello che gli Stati Uniti d'America costituiscono fin dal 1789. Questa è l'analisi di Charles Kupchan, attento osservatore delle politiche statunitensi, anche molto esperto dei rapporti degli Stati Uniti con Cina, che in questo momento storico sono davvero particolarmente sensibili. Dalla voce di Kupchan ai vostri commenti al 349-238-6666. Un ascoltatore: Trump è pragmatico, i posti di lavoro che ha creato, l'economia pre-Covid volava, gli Stati Uniti sono sempre stati apparentemente società libera, ma razzismo, violenza, poveri che dormono per terra ci sono da sempre, con democratici e conservatori, scrive l'ascoltatore. Trump non è ipocrita come altri, dice quello che pensa ed è trasparente, può piacere o no, ma sai cosa ti aspetta. E poi abbiamo sempre la nostra fetta di fedeli ascoltatori che riconoscono anche questi vezzi musicali che ogni tanto vi proponiamo, e qui c'era un applauso ai Megadeth. Che brutta cosa avere sotto controllo i confini del proprio paese, talmente brutta l'Italia, Piddina, Radical Chic ci ha rinunciato da anni, così un ascoltatore che aggiunge Boldrina, vabbè, queste slang politichese sostanzialmente, ma in sostanza mi sembra che il senso di questo messaggio sia un plauso invece agli Stati Uniti che tentano di mantenere anche con i muri e l'alta tecnologia il controllo sulle proprie frontiere. Senza gente come Trump avremmo un mondo anarchico e rispettoso delle leggi. In realtà, da quello che avete sentito prima, in particolare Kupchan puntava il dito sull'utilizzo dell'esercito, per esempio, c'era velatamente l'idea che il comportamento di Donald Trump stesse violando la Costituzione americana, o quantomeno ci andasse in contrasto. Sentite cosa dice Kupchan, la precisazione è molto interessante. Yeah, I would just say, you know, if you go back and you look at the Sì, direi che se andiamo a rileggere The Federalist Papers e il dibattito che ha avuto luogo tra Hamilton, Jefferson, Madison e tutti gli altri padri fondatori, una delle loro paure più grandi era che l'esercito degli Stati Uniti potesse diventare uno strumento di repressione, che potesse essere impiegato per sostituire il governo repubblicano con un governo tirannico. Qui abbiamo il presidente degli Stati Uniti che si rivolge all'esercito per usarlo contro il popolo americano, qualcosa che va contro i principi dei padri fondatori. Of the founding fathers. Questo è Charles Kupchan, tra poco torno da voi ascoltatori, non prima di avervi introdotto e presentato Andrew Spannaus, giornalista, saggista, analista americano, ha scritto vari libri, ne sta scrivendo un altro, uno di questi era relativo proprio a Trump, perché vince Trump. Andrew, buongiorno, ben ritrovato, Nessun luogo lontano. Buongiorno, grazie. Allora, Andrew, tra pochissime ore Donald Trump volerà in Arizona per battezzare, celebrare quelli che sono questi 322 chilometri di muro. Un processo molto lungo e anche politicamente piuttosto aspro, ricordo, no? Il dibattito con col Messico per la costruzione di questo muro. Può essere un buon reinizio per Donald Trump dopo la disfatta di Tulsa, perché parte quantomeno dell'efficacia del muro è consolidata dai dati, dalle notizie? Per Donald Trump il muro è un simbolo ed è chiaramente va visto in termini politici, cioè lui va in Arizona, tra l'altro, che è uno stato molto importante quest'anno per le elezioni, perché è stato vinto sempre dai repubblicani recentemente, ma al momento Biden è avanti nei sondaggi. Sì. Trump vuole consolidare la sua base, anche in Arizona è avanti, Trump vuole consolidare la sua base, uno stato quindi per questo dove lui sicuramente vuole andare, e dopo quello che è successo in Oklahoma, a Tulsa, anche se lì dobbiamo considerare vari fattori, cioè sicuramente l'immagine conta, l'immagine è negativa e Trump era molto scocciato, depresso, per questo abbiamo visto le foto. Sì. Però dall'altra parte milioni di persone hanno guardato online, quindi io non so se sia indicatore della base che abbia abbandonato Trump. Un po' sì. Meno entusiasmo sicuramente sì, ma la base c'è ancora. Sì. Sul muro direi una cosa, il muro, dicevo, è simbolico perché ci sono delle zone dove è importante il muro, nel senso è utile, come abbiamo sentito, da una guardia del confine. Sì. Ma in molte zone l'efficacia è ridotta. E probabilmente è uno spreco, a molti considerano uno spreco a livello finanziario, perché Donald Trump, la sua amministrazione, ha già ridotto enormemente l'immigrazione illegale negli Stati Uniti e l'ha fatto a livello normativo, cioè hanno cambiato la legge. Adesso sì. Quando uno attraverso il confine senza permesso, prima veniva arrestato e tenuto dentro gli Stati Uniti ad aspettare, rilasciato, un po' come succede in Italia. Sì. Adesso no. Adesso quando arriva ti portano in Messico, ti riportano in Messico, a Mexicali o a qualche città lì, e aspetti lì, e la gente dice, vabbè, se io vengo e attraverso e neanche ci rimango, cosa ci vengo a fare? Sì. State ascoltando la voce di Andrew Spannaus, attento osservatore di tutte le vicende statunitensi. Un po' di ascoltatori chiedono perché non ricordiamo che in realtà la decisione del muro risale a parecchio tempo fa, è stato deciso nel 2006, la legge fu firmata da George W. Bush, limitato solo all'Arizona. Nel 2010 il Department for Homeland Security aveva detto ci sarebbe stato uno stop per espanderlo oltre il progetto pilota dell'Arizona, e poi nel 2011 Obama aveva dichiarato che il progetto era virtualmente concluso, e poi invece negli anni successivi c'è stata un'accelerazione. Ci sono un po' di ascoltatori che a volte con un linguaggio poco ortodosso fanno un plauso a questa che è la politica statunitense, un po' più dura, un po' più rigida sull'immigrazione. Andrew, stai con noi perché c'è un altro tema, anzi parecchi altri sui quali vorrei soliticarti. Andiamo a sentire però l'informazione finanziaria, poi di nuovo Nessun luogo sarà lontano. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta Nessun luogo. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. In questa puntata di Nessun luogo è lontano seguiamo passo passo il presidente statunitense Donald Trump, che tra poche ore sarà in Arizona per simbolicamente mettere l'ultima pietra, o meglio dovrei dire l'ultima staccionata di 322 chilometri di muro che in un modo o nell'altro hanno contribuito alla gestione dell'immigrazione irregolare negli Stati Uniti. Con Andrew Spannaus, giornalista statunitense, analista, scrittore. In proposito, Andrew, c'è un ascoltatore che ha colto la palla al balzo quando ho detto stai scrivendo un nuovo libro dopo Perché vince Trump. Un ascoltatore di rimando e con un po' di sarcasmo si domanda se il titolo sia Perché perde Trump, ma di questo poi magari ci dici qualcosa. L'analisi è corretta, ci scrive Alessandro, tutto quello che abbiamo detto, quindi grazie, dice su almeno un punto. Le pratiche di Trump sono divisive e illegali, del resto quella di Trump sarà l'ultima presidenza statunitense quasi dittatoriale, così scrive l'ascoltatore. Non sono d'accordo sull'ipotesi che sia in svantaggio nella corsa alla presidenza. L'Occidente è purtroppo impregnato di scontento qualunquista che abili manipolatori come Trump cavalcano perfettamente, e lo farà anche il prossimo novembre. Innanzitutto, prima di scendere meglio nell'analisi più strettamente politica, vi faccio sentire cosa ha detto Donald Trump a proposito del Covid-19 e l'emergenza coronavirus. Noi, io, abbiamo fatto un ottimo lavoro con il Covid. Ho chiuso gli Stati Uniti. Ho salvato migliaia di vite. Se si fanno i test su larga scala, è chiaro che risulteranno più casi. Ho quindi detto, ragazzi, per favore, diminuite il numero dei test. Queste le ultimissime dichiarazioni del presidente statunitense sull'emergenza coronavirus. Proprio mentre stavamo andando in onda, buttavo l'occhio alla CNN che nel programma del mattino riportava come in almeno metà degli Stati Uniti d'America i casi fossero preoccupantemente in aumento. Torno da Andrew Spannaus, mi rispondi se puoi con una battuta, se non hai un contratto troppo stringente con l'editore. Andrew, di cosa stai scrivendo nel prossimo libro? Sulla sconfitta di Donald Trump? Non ci credo. No, il titolo del libro è L'America post-globale. E guardiamo dopo Trump e il coronavirus dove andrà l'America. Poi vi svelerò se perderà. Sicuramente però è sotto in questo momento. Dicevo che la sua base c'è, ma lui sta perdendo tra gli indipendenti, cioè quelle persone che hanno in numero proprio appena sufficiente, gli hanno dato il beneficio del dubbio nel 2016. Quello di cui io sto scrivendo, che uscirà ai primi di settembre, ma chiaramente deve andare oltre le elezioni, è cosa rimarrà della presidenza Trump, quindi poi, anche di questi primi 4 anni. Poi se dovesse vincere vedremo cosa succederà dopo. Ma il fatto che il mondo è cambiato, cambia a causa di Trump, ma Trump riflette delle necessità di cambiamento di politica estera, di politica economica. La crisi del coronavirus accelera ancora di più alcuni di questi cambiamenti, come quello della spesa pubblica, le filiere, le supply chains mondiali. Quindi andremo a vedere cosa rimarrà e cosa cambierà nei prossimi anni. L'abbiamo spesso sottolineato da questi microfoni, abbiamo trattato proprio la crisi da Covid-19 come grande acceleratore di nevralgia, alcune volte acceleratore di crisi e a volte anche acceleratore di virtù, perché vi sono stati casi virtuosi nel mondo che proprio l'emergenza da coronavirus ha messo in luce. Il buon capitano, sottolineavamo forse con una metafora un po' puerile, è quello che durante il mare in tempesta sa guidare il timone. Detto ciò, a proposito di tempeste, l'economia americana, ovviamente complice l'epidemia da coronavirus, ne ha risentito e tanto. L'ultima mossa di Donald Trump, lo ricordavo inizio puntata, è stata quella di fare una grossa stretta sui visti lavorativi, anche però di personale altamente qualificato, e alcune aziende dicono attenzione, noi non ce l'abbiamo abbastanza statunitensi per questi lavori. Sentite come ne è andato l'annuncio la televisione statunitense. Intanto, mentre si prepara a visitare il confine, il presidente lavora alla riduzione dei permessi di lavoro. Quindi quasi concomitante questo aspetto. Però Andrew Spannaus, abbiamo dato in apertura la notizia della visita di Townsend, ma anche dell'ambasciatore libico, statunitense, in Libia per incontrare Sarraj. Segno che la politica estera sta forse un po' cambiando, quel disimpegno iniziato da Obama forse vacilla, si torna su alcuni teatri come quello libico, importantissimo. Io credo di sì, nel senso che questo sia un segnale in quella direzione, poi bisogna vedere dove andrà e soprattutto chi vincerà le elezioni, perché si sta tornando a una posizione, uno, di essere più presente per gli Stati Uniti, ma è guidata dalla volontà di contrastare altri attori esterni come la Russia o come quello che sta facendo la Turchia, è anche spinta sulla base per esempio della volontà, la politica di Israele, che è molto contrariata dalla Turchia. Sì. Quindi io vedo questo quasi come una preparazione per Biden, cioè una politica, un ritorno di una politica più tradizionale americana di presenza e di contrastare paesi che, con cui Trump invece non ha così tanti problemi. Lui, i suoi istinti sono diversi, i suoi istinti sono bene, c'è l'Egitto e la Russia, facciano quello che devono fare, io basta che non devo impegnarmi troppo. Certo. E questo lo vediamo in tutto Medio Oriente. Quanto sia realistico l'idea di una partizione di fatto, di un continuare col processo dell'ONU, è una questione di cui parlate spesso. Sì. Però ecco, sicuramente Biden e le istituzioni americane si stanno muovendo di più che il presidente. Sì. E se questo succederà, se questo andrà avanti, se Biden vincerà le elezioni, vedremo probabilmente una politica non solo più tradizionale, ma ben più aggressiva rispetto a quella di Donald Trump. Biden sta attaccando Trump da destra su Venezuela, Corea sì. del Nord, Cina, sì. Siria, Russia. Grazie mille. Andrew Spannaus, ti lascio il caso di dirlo alla scrittura, lo ricordo Andrew Spannaus, giornalista, collega ma anche analista, e ci ha aiutato a capire meglio le ultimissime mosse di Trump. Ciao Andrew, alla prossima, buona serata, buon lavoro. Grazie, saluti a tutti. Allora, intanto anche su Facebook, ma anche su WhatsApp 349-238-6666 ci sono un po' di commenti su quella che è stata la politica del presidente Donald Trump, il disimpegno da tanti settori, soprattutto il Medio Oriente. Qualcuno su Facebook scrive: l'improvviso ripiegamento dalla Siria ha lasciato Rojava in pasto alla Turchia, che di sangue ne ha sparso. È un inspiegabile gesto che ha ingiustamente provocato un eccidio. Abbiamo raccontato anche quelle immagini francamente eclatanti, quasi imbarazzanti, con i mezzi blindati statunitensi che lasciavano la linea del fronte e lasciavano anche tutti quei guerrieri, come alcuni li hanno definiti, che avevano combattuto per anni lo Stato Islamico, ma d'altra parte i militari sul campo eseguono quelli che sono gli indirizzi politici. È anche altrettanto vero che il disimpegno da tanti quadranti, e penso all'Afghanistan, l'avevano iniziata molto prima la presidenza democratica di Barack Obama. Interessante quello che diceva Spannaus, in qualche modo un Trump quasi che prepara il campo eventualmente a un Biden ancora più aggressivo in politica estera. Ci sono un po' di messaggi al 349-238-6666, li leggo subito dopo essere andati sulle strade italiane. Cari italiani, care italiane, buone notizie dal fronte economico. Ci ha pensato Nissan. Non aspettare ancora, agli incentivi ci pensa Nissan. Da oggi, se rottami o permuti il tuo vecchio veicolo, su Nissan Qashqai hai fino a 7.450 euro di incentivo fase 3 anziché 4.850. TAN 4,99, TAIC 6,11 con finanziamento iBuy, salvo approvazione Nissan finanziaria. Info e condizioni su Nissan.it. Ti aspettiamo in concessionaria in tutta sicurezza. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. In questa puntata di Nessun Luogo è Lontano vi diamo conto di quello che nell'idea, nella mente di Donald Trump dovrebbe essere in qualche modo un rilancio della sua lunga campagna elettorale. Va infatti a suggellare quello che era il suo cavallo di battaglia, soprattutto elettorale, il muro anti-immigrazione. Un muro che, come ricordavamo prima, affonda le sue radici molti, molti anni prima della discesa in campo politica di Donald Trump. Abbiamo ricordato il ruolo di Bush, il ruolo della Clinton, però sicuramente lui ne ha fatto un cavallo di battaglia, una leva politica formidabile. Oggi, tra pochissime ore, va a inaugurare i 322 chilometri. Anche se, a dire il vero, sull'efficacia alcuni si sono espressi in maniera molto molto positiva, altri, ma parlo di fonti di polizia di frontiera statunitense, hanno detto: guardate che i narcotrafficanti riescono a molto abilmente, così come i coyote o chi trasporta i migranti, a forare quel muro, a utilizzare scale per arrivare ai 12 metri necessari per scavalcarlo. E chiedono a gran forza, e questi sono tutte le agenzie di polizia statunitensi, controlli tecnologici, quindi telecamere, infrarossi, sensori di movimento, e quelli assieme al muro potrebbero contrastare il fenomeno. 349-238-6666, c'è un tassello in tutto questo, perché un Donald Trump particolarmente attivo, vi dicevo, blocco dei visti per lavoratori anche altamente qualificati, industria e tech che in qualche modo si ribella, e Joe Biden cosa fa? Andrew Spannaus diceva, beh, attacca da destra. Qualche ascoltatore ironicamente dice, certo, attacca da destra, ma in realtà è di sinistra. Vi faccio sentire cosa ne pensa Charles Kupchan, uno dei più grandi politologi americani. Gli abbiamo chiesto quanto Biden stia lavorando nell'ombra, perché la sua figura francamente sembra molto, molto evanescente. Sentite. We still are several months away from the November election. Anything could happen. Siamo ancora parecchi mesi di distanza dalle elezioni di novembre. Tutto potrebbe accadere. Il presidente Trump è conosciuto per essere molto astuto nelle campagne elettorali, ma al momento sembra che l'ex vicepresidente Biden stia ottenendo buoni risultati lasciando che Trump commetta i propri errori da solo. Mi pare, insomma, che parte della strategia di Biden in questo momento consista nel lasciare che il peggior nemico di Trump sia Trump stesso. Inoltre penso che in questa fase della pandemia la sua strategia consista anche nel non comparire a raduni molto affollati. Ma penso anche che qui entri in gioco il fattore tempo. Penso che Biden stia pensando di farsi più presente, più attivo e di lanciare più apparizioni in pubblico, ma che non voglia farlo troppo presto. Ritengo che tra non molto annuncerà la sua scelta per la vicepresidenza. E quando succederà, adotterà un assetto di campagna molto più attivo e presente man mano che le elezioni di novembre si avvicinano. Che questo poi accada a luglio, ad agosto o a settembre, mi pare un tema sul quale lui e il suo entourage stiano ancora dibattendo. Politica attendista quella di Joe Biden, nelle parole di Charles Kupchan. Anche in maniera piuttosto lampante, se volete irriverente, sostiene che il peggior nemico di Trump sia Trump stesso. In effetti le ultime mosse sono state parecchio stigmatizzate. Certo, il fronte Dem a questo punto dovrà ricompattarsi e scegliere un vice come si deve per tentare l'assalto finale a un Donald Trump che, secondo un ascoltatore, è destinato a vincere, perché i Dem non riescono a in qualche modo raccogliere la sensibilità della gente normale, così scrive un ascoltatore. Qualcun altro di rimando scrive: Trump ha dimostrato in maniera lampante di non saper governare la crisi, ha naspato su tutti i fronti e i muri non saranno sufficienti a coprire il fallimento di questi mesi. Insomma, si affilano le armi, non si risparmia ogni tipo di calibro in questo fuoco di fila tra repubblicani e democratici, e un proiettile particolarmente pesante lo ha sparato John Bolton, che è stato il terzo consigliere della sicurezza di Donald Trump, esautorato dallo stesso Donald Trump stesso, che nel giro di 9 mesi ha sfornato un libro, La stanza dove tutto succede. Sto iniziando a leggerlo, è interessante perché parte con una citazione, ma se ho tempo ve ne parlo dopo. Che effetto può avere questo libro bomba di John Bolton? Pensate, 2 milioni di euro di anticipo da parte dell'editore, che lo tratteggia come un personaggio politico totalmente incompetente, soprattutto in politica estera, con nozioni geografiche scarsissime. Non sapeva che il Regno Unito aveva la bomba nucleare, non sapeva esattamente gli schieramenti delle truppe, insomma ci va giù pesante, pesante, pesante John Bolton. E beh, che effetto può avere sulla campagna elettorale? Lo abbiamo chiesto sempre a Charles Kupchan. Well, John Bolton's book, I think, is important, but not a game changer. Penso che il libro di John Bolton sia importante, ma che non sia in grado di cambiare la partita. Già sapevamo molte delle cose che sono contenute nel libro. Sapevamo che il presidente Trump solitamente usa la politica per favorire i propri interessi personali ed economici. Sappiamo che ha un senso molto vago di ciò che costituisce un comportamento appropriato quando si tratta della legge. Per esempio, proprio lo scorso fine settimana, un importante procuratore di New York è stato licenziato perché stava indagando un po' troppo nelle faccende di Trump. E questo è solo un altro esempio di come il presidente interferisce nel potere giudiziario, che dovrebbe essere indipendente. Ma non penso che ci siano delle rivelazioni nel libro, qualcosa che si discosti molto da quello che è già stato diffuso dai giornali o da altri libri che sono già stati pubblicati. Reported in the newspapers and books that have already come out. Beh, ascoltateci, ascoltatori, vi prometto, finirò di leggerlo in fretta e vi dirò se quell'anticipo da 2 milioni di euro valeva davvero notizie che più o meno tutti sapevano. Qualcuno ricorda, a proposito del teatro libico, che nel 2011 c'era la presidenza Obama, quando successe quello che successe, dall'intervento di Sarkozy seguito a ruota dal governo italiano. Ci ricordiamo che nei voti popolari Trump perse, così Fabio, che ci rimanda a quella che è la complessità e la farraginosità, perdonatemi, secondo alcuni, del sistema elettorale americano con appunto i grandi elettori. 349-238-6666, rimane un ultimo punto da toccare velocissimamente con la voce di Charles Kupchan. Il fronte repubblicano è coeso oppure diviso? Sentite. As far as the Republican Party goes, there's no question that the last few months have been very damaging. Per quanto riguarda il Partito Repubblicano, non ci sono dubbi che gli ultimi mesi siano stati molto deleteri. In parte perché un certo numero di importanti esponenti repubblicani, ad esempio Colin Powell, si sono espressi molto chiaramente contro il presidente, in particolare per quanto riguarda il tema del razzismo e le manifestazioni. I militari hanno parlato apertamente e preso le distanze dal presidente. E i militari sono solitamente visti come un'istituzione che non parteggia o al limite è propensa verso i repubblicani. E questo è molto importante. Quindi non ci sono dubbi che i repubblicani si stiano preoccupando e che temano che l'impopolarità di Trump possa danneggiare la corsa per la Casa Bianca e per il Senato. Ma non penso che ci sarà una rottura profonda tra i repubblicani e Donald Trump, perché Trump riesce ancora a tenere in pugno il voto popolare repubblicano e loro continueranno a votare per lui. E penso che sarebbe molto rischioso per i repubblicani esprimersi pubblicamente e metterlo da parte. Personalmente credo che sia la cosa migliore da fare, perché penso che il presidente non stia facendo il bene del paese. Ma sarei molto sorpreso se vedessimo i principali candidati repubblicani togliere il loro supporto al presidente prima delle elezioni di novembre. Before the November election. Obbedisco, Frisani, saluto e ringrazio tutti gli ascoltatori, tutta la squadra di Nessun Luogo, l'appuntamento è domani ore 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.